chiedo, non mi faceva per farmi cantare la dieta io. A Gicosta mi ha fatto. Ah no. Sì, quasi che Graziano ti rimandi a lì. Oh, ya. Che servito, ya. Ma che bravo, niente, scacciato, bravo. Vediamo se rilanciano, rilanciano la tariffa. Non lo so se è ancora sganciato. Che fa? Sganciato hai? Binario 4.5. Si ascoltate su Italia la radio vera, come? Ti ascoltiamo la velina, già ti ascoltiamo Cabagaba. Cambia e cambia. Come mai siete sul binario 45 cambia? Che Falchetto stava accompagnando a Pierpaolo fino a Domosua, capito? Capa di positiva. Quindi non era Pierpaolo io. No, era per Paolo che stava sganciando un rimorchio. Comunque ben entrato e ben sentito, forte chiasso qua, col baracchino alla rubicchia. Vabbè, gara. Quasi tante di casino. Ah? Che baracchino stai usando? È quello che uso in macchina, che volevo fare un esperimento, adesso vediamo se funziona, per eliminare quei rumori che fa del motore, mi. Gaba, gaba. E se mi vedete, va che? Come vi è qua? Ben sentito. Così mi vedete? Così tu? Che mi vedete? Quando dici gaba, gaba. Troppo poco per pa. Che ci dici di bello? Trabaccata la mia voce. E allora, l'abbiamo trabaccato. Mi è sembrato di sentire però la voce di Gianni Capri 2. Capri 2, AC6, cambia. Pierpa, ciao, buon rientro, buon tutto, alle prossime. Avanti, parché. Ciao, Pierpa, buon tutto, dai. Buon proseguimento di serata e buon tutto, ce l'ascoltiamo. Vai, Pierpa. Capa, positivo, ciao, Pierpa, ben ascoltato, buon tutto. Buona giornata per domani, dai. Radio Vera da questa parte. Chiamano Capri 2, ci sei? O negativo? Magari non lo sa neanche che siamo qua. E meglio forse ci spostiamo sul 10. No, dai, andiamo sul 10, o se sa mai che cerchi qualcuno, dai. Così io ne approfitto anche accendermi la sigaretta e passo sul 10, dai. Il dito troppo veloce voi. Io ho calciato, a me manda un tantino, io giro e parlo, ma l'ultimo che sei arrivato sei tu, cosa beviamo, fa che? Ah, quella piacere nostro, Natali, quella piacere nostro, Bianco o rosso? Sempre rosso. No, io c'ho birra e acqua vite, qua. No, Naide, Rosene. Le bier. Niente, Naide. Ah, dai, due secondi che mi accendo la fumogeno, cacca, va anche l'accendino, mi si è invariato. Bobo, anda bene Meda. Cacca, dai, due secondi accendo la sigaretta in cucina e ciccia, dai. Ci vareti caffè, birra e acqua vite, cara. Allora, la birra scarta, l'acqua vite scarta, un caffè è buona. Però dovete venire qua a pigliarvi. No, io sono con povero battaglione, nel miglior locale. Vabbè, allora andate a vedere un mucchio di puliti. Io ho detto di no che va a giochizzo. Capito? Allora andate a vedere un mucchio di pigliati. Allora non ce n'è problema. E quello che me voglio già è poco, là, un caffè macchiato. Basta, caffè macchiato a te. Ma Falchetto mi chiede l'acqua minerale. Minerale con le bollicine. No, e caspita, quello mi fa uscire le rane. No, che non lo voglio avere sulla coscienza, perché trova ma così ad allievo. No, si sa mai che da questo che compra anche coscienza del GRC. Beh. Pittina, è un funente, sì. C'è uno che diceva, aveva 98 anni, non aveva mai bevuto acqua in vita sua. L'unica volta che si è sentito poco bene gli ha dato una pastiglia con un bicchiere d'acqua e molto. Me lo posso immaginare. È casta che non mi danno da gruino, che è pittina. Non l'abbiamo mai pigliato, non è manco pastiglia, mi ha lasciato un momento un pesce, la prima di che ha una pastiglia. Ho mal di campo, anche avevo mal di campo forte, ha dato la pastiglia, quello ha dato lei, non è molto, poverino. Si è succhiato, è molto barassuccio, che la nera dureva. E la secca l'ha fatta in cui, poi ti sei già cosa c'è un ragazzo, l'ha posto subito la ruggine. Ah, vero, mi pierpa. No, ma succede veramente, lì, che non è abituato, guarda. Non mi va l'acqua, sia bollicine, senza bollicine, lui che vuoi. Però se non si è abituato non ce l'ho. Io vedi, vado a bevo, l'acqua benedetta che lo sa Natalino. È rosso, sto troppo bene. E io credo che è pittina. E tu ti vedi ora ti ci piglia subito la ruggina. Ma poi avete visto, no? Un collega di travaglio mi piace, no, Natalino, Pierpa. Cristo ogni anno fa dei vaccini per l'influenza. Tanti vaccini, cazzo, è più malato degli ammalati. Vai tu. Comunque adesso ti dico, c'è il padre di un amico mio. Aveva 91 anni. Non era mai stato, ma dico mai stato. Non solo in ospedale, ma manco mai dal medico, 91 anni. Cazzo era armeno, all'asilo e tutto l'altro. Un giorno è caduto e si è fratturato il femore. E ha portato giustamente all'ospedale. Cazzo l'hanno operato il semboccio. E adesso ti sa nonna. A mia nonna è successo, ha 96 anni, si è troncato il femore e da lì se n'è morto. Ma te immagini che cazzo, 91 anni, manco mai un dottore e si chiede non sappia che cosa era, un mal di capo. Ma entro un raffreddore, è una cosa normalissima senza medicini e senza niente, nulla, no, non pigliava mai niente. Una caciuta, cazzo 3 mesi e si è trabucciato. Hanno perso lo stampo di quelle persone, nonna, 96 anni, si è troncato il femore, è caduta in casa di mio zio, si era invitata a ritirare ed anch'io non ne ci dà più. Sono cose sostanziali, delle voci delle cose arrivano una caduta e arrivano tutto. Ma tu pensa che nonno del nonno, buon'anima, e se fumava la sigara a pacchettina a quadretto di muro, proprio il cerco, eppure se te l'ha bocciato la caciuta ha ricavato, l'ho preso, se no va bene, lo matta sul cane, era al zillo, lo finisce, capita, è una cosa spettacolare da vedere. Si va in Zuburu, visto come Fabio Minocchi in campagna, che Zuburu fumava la sigara a bocca intro, gatta, sigarette, cosa mi ha mai fumato? Cazzo, oi, ed era anziano, proprio anziano quando è morto, ma... Io non uso Google. Come fanno a arrivare a quell'età lì? Ma è nulla chissà. Ma parli, toglimi la curiosità, quando parli tu si sente Mario Vassel, come mai? Magari sto parlando in qualche canale vicino e me lo porto appresso. Cava, cava, cava di Rogero. Capitolo hai per pa, eppure se non lasciate mai sei di grazia, che sa che abbia campato loro. Infatti, di Gianni, lo Mattese. Cazzo. Era un bel anziano il padre di Gianni, lo stesso. Ui, ui. E un'accusa di uffa, morì, fa cosa... di caccia sono forti, ma rasuri. Ma non ne fanno più uomini del genere, cazzo. Io non ci arriverò mai a quell'età. Già con quello che ha avuto, io non ci poco. Non so come ti dici... non ha avuto mai nulla. Ehi, a capo, dai, un attimo di bianco la parte via. Cappa e poi Roggio. E la gara. Eccomo qua. Così sorrida, cagiuta e non si è pesato più. Che sono 95 anni, a bella di roba carlina e andava a cavata ancora. Ehi, c'è questo... Questo che ti sto dicendo, gli hanno tolto, a 89 anni gli hanno tolto la macchina. La cosa mi ha passato pure la cosa, mi ha superato la cosa, che si stava a fare due anni, no? Cazzo mi ha superato la cosa, però ha ripigliato e mi ha ricavato la patente la macchina mi ha ricavato. A chi ultimamente da voi che problemino mi ha deciso con le mi ha via la vita. È abituato, è pittina. Io lo so già, hanno fatto bene a prendergli la macchina, se no lui magari si ammazzava in macchina, ho preso. Guarda, c'è un cliente nostro, la Metalivi al Tempio, che ha l'11 50 in garage, e non esce sempre, c'è l'11 50 che colora caffè e latte, poi hai qualche volta che l'ha incontrato, oggi non ne sai. Tutte le mattine la scende e toglie il metro fuori, la mette in moto e ogni tanto lo prende e gli fa un giretto. Però si mette giù al giro di Sassari e ne va 89 anni, ma adesso ne va oltre 50, che dice che gli hanno offerto non so quanto per contratto 50 e ha detto quella muore insieme con me. Figurati. E poi già mi dice, e ogni mezz'anno la buona in moto si funziona ancora. Guarda, no, togli ogni tanto, almeno una o due volte al mese la togli fuori, gli fa fare, ci fa un bel giro di Sassari, che è la verità. Guarda, se ti capita che vai lì nella piazzetta di Via Tempio dove fanno il mercatino, a destra per girare verso Via Marsiglia, guarda c'è un garage aperto, si vede 8.50, la lascia aperta, delle volte lascia aperto il garage anche quasi tutta la mattina, si vede, la macchina si vede, tranquillamente, se ti capita tutti i giri, c'è un garage lì a destra dove fanno il mercatino, tanto passando si vede, e tiene, lo vedi, perché lui la toglie fuori a poco a poco al retro, no? E si vede, quando passi tu la vedi, molte mattine la vedi fino a mezzogiorno e mezzo che se ne sali a casa, la vedi sempre lì tu. Infatti, cosa non l'ha data la macchina tu Mattesi, Bruzzaru di Gianni, quello lì ha preso la rottamata la macchina, ed era una macchina nuova a me, era, cazzo, nuova. fuera di mia cazzo conto che c'è una macchina, era nuova, diamanti. La rottamata perché dice adesso c'è una certezza, dice i riflessi non so più, a che la poliziotto vedono? La rottamata. Fanno guidarla. Vabbè, se non se la senti bisogna mirare puro. Se riconosce che caso non se la senti, è meglio così, eh. Ma già era zitto da buttare la macchina. Che è, tu dici, a una certa età di flecce, non so, anche la poliziotta è inquadrato, no? E allora ha detto, beh, lo sai che cazzo, ma mazzo in macchina, meglio è, e l'ha rotta meglio. La voglia dare la figliola, la voglia dare la macchina, tratta sera. Vabbè, la prima, se l'ha dismessa vuol dire che non se la sentiva più lui, e ha fatto bene. Quando non c'è più nella mente che possa ancora andare, meglio che facciano così. Ah, oh. È responsabilità che ha quell'uomo, perché era poliziotto, ispettore di polizia era quello lì, non era un pilota qualunque. E già era asilo per portare la macchina, solo che dice, pensava a una certa età i riflessi non sono più quelli, e allora è meglio che la rottama la macchina e non ne usava più adesso, capito? E infatti una volta devi fare, che cosa devi dire a Gianni, a chiedere a Pini? Vabbè, infatti io non sei amichissimo, ce l'ha fatto, vuol dire che sapevo il fatto di suo, c'è un signore ancora appoggia qua, e quello invece quell'altro di mio zio di Casasciano, quello era un torto perché guidava sempre bene, un giorno ha toccato una macchina e allora era un torto. Era un torto perché non si è ricerco a Catano perché non aveva più riflessi. E poi la toccatura ve l'ha ricavata e si era pigliata con un po' Cacoglia. Infatti si era pigliata a Cacoglia, un grido. Una vita guidente, Vito, c'era un grido. Cazzo, vedete che arriva era buita la macchina. E logico, hanno visto che era anziano, magari non vedeva più bene, i riflessi non erano quelli, hanno fatto bene a togliela. Magari si faceva del male con la macchina, quando uno è così no, non bisogna che ne guidi, no. E lui va in qualche sassa lì, con la macchina, non già era tranquillo solo che ultimamente era un pochettino distratto, a pensare che lui era stato 35 anni a Milano, guidava a Milano in autostrada e tutto quanto, non è che era... 35 anni a Milano, ma in tutto aveva patente, mi pare roba già di 47-48 anni, va via via via. È fatto, ti giuro. No. Anni fa due veniva impiegata la macchina. Beh, io credo. Non ci sono più le condizioni. Fatto, perché se aveva anche passato il coso alla patente che era abile alla guida, poi ne ripiglia nella macchina, è logico che si era pigliata. Guardi che passare la misale, ha fatto pure le catarate, era tutto a posto, è logico, da poi mi viene pigliata, vabbè, cose che succedono è meglio così, dai. Mi sembra che la porto anche in prefettura, la patente l'ha perso. Dove si è fatto? Non sei giovane tu. Cazzo, non hai più cane. Ah, ne manchi una giubiucana, ma purtroppo, se serve. Allora sai, in certi momenti, non è più voglia davvero, cazzo, forse troppi anni guidando, boh. Infatti, se mi passa tutta la fantasia, chi si è vero, eh. Pure a me mi ne è passata una fantasia, come si mi ne è passata. Io non la posso più vedere, la macchina la prendo perché ho necessità di prendere la macchina, se no... Ma ora perché sono ormai anni sul traffico, sulle cose. Mi si ne era affrettato un bel di voce che andate in piena la macchina, pure per fare che cosa. Non c'è più cane. Poi capita che ti nervosisci, se vedi che c'è un bel di traffico, già lo so già. quando non c'è più posteggio, gli altri rompono le casse della macchina, non poco. Sai cosa è? Che è anche il metodo sbagliato, a parte tutti sono come le pecore che vanno, devono rientrare ovvio, una segue l'altra, allora così sono tutti guidati le trossasse, tutti devono seguire la stessa rotta, se no non fai, pensare che ci sono delle strade alternative che si potrebbero utilizzare, perché anche il cogliolo dice, ma se tu fai il giro però tanto c'è la linea vai il minimo allunga 2 o 3 chilometri, ma se tu passi però 3/4 d'ora in fila in moto la macchina, la benzina la consumava a tessi, lì da una linea allungo la strada, cazzo però arrivo in minor tempo e posso andare a vedere, tanto che la linea della strada la consumava a tessi. Infatti è una deluta della Vaglietti, non mi trovo mai in Sassari, e ci non andare via di lui. Oh, sempre pura pura, Pierpa, perché se no, cazzo, io dovevo fare orario, se no non ve la pazzia finiva a non emettono. Adesso io ti faccio un esempio, per scendere dalle parti di Predaniedo, oppure quando andare a caricare, che devo fare a 131, preferisco, sono in deposito, preferisco fare quel pezzo di fronte ai carabinieri, riesco, sono a 131, che è da 131, e rifaccio tutta la 131. Carico come ero, prendevo cazzo quando dovevo andare a Predaniedo, subito da Anchisi entravo, io dovevo in zona via Milano e Coro, subito via Vettaglia, però 131 e arrivavo a Predaniedo in un lampo. Ora io, per esempio, allora vado via che vengo a casa, faccio poi parto dal negozio, salgo in via Carlo Felice, l'unico semaforo che incontro è quello dove c'è la GPC. Insomma, quello lo faccio in 2 secondi, poi salgo al quadrato, faccio via Lunesole, via Adis, via Puliceta, Ponte Nuovo, poi quella strada che sale da te, quella rotonda di via Prati, scendo nella strada vicino, già lo sai, dove abita a Roma, cerco molti voti, diretto a casa, 13 minuti, passando da, invece da via Le Mavi, a Pasqua e cosa, praticamente ci metto, se tutto va bene, 40 minuti. E già lo so, anche io faccio quelle scorciatoie, io dalla 131 molte volte quando sto tornando da Porto Torres e per Sassari, entro sempre a Sant'Orsola, non ci passo dritto, no? E così inizio dalla VTV di cazzo posso Sassari 2 e so che arrivi tu. Ma chi è avanti? Negativo. Buonasera a tutti. Ciao Antoine, bonsoir. No, io vi stavo ascoltando qua. L'ho sentito pure io, l'ho sentito. Allora il falco, falchetto. Non era io che lui. subito con la chicchia, da poi richiami e non entra. Andrà bene mela. Troppo mela che bene, bene, bene, mela, mela, mela, oh mia. Cazzo che giornata anche oggi. Da schifo. E mira, dopo tutta l'aria in prigione, cazzo, mi pare essere in prigione, mi pare. Tutto il giorno chiuso in casa solo. Non sono andato da nessuna parte. Oh, io, hai sbigliato? Tanto mi già venire a guardare il vano. Hai fatto che sono più va e via. Ah, pittina. Anche da giustizia, ci vediamo domani, tanto dove vuoi andare, non puoi fare un cavolo, non puoi uscire, cosa fai? Affidati leva. Infatti, oggi è una giornata da dimenticare. Non le ho viste, la verità non le ho viste per fare. Dopo controllo in computer, vedremo cosa dici. Forse quello è anche più attendibile. Che cosa, davanti? Intanto, anche se la televisione non ti credi che c'è il pezzissimo. Poi? Cazzo, si dizia che andava chiuso, si dizia che era una preoccupazione che si riputende verso la Sicilia e la Sardegna era tutta pulita. Mica piovuto. Attendibile è quello che è quello della televisione. Chi studia televisione spesso e volentieri sbaglia. Perché quelli hanno il satellite. E allora, no, già è più attendibile quello dei computer. Ah, non mi so dirlo. Io ho fatto leggere i canali, se vedi che cosa mi piace, mi preme, se non ne ha tutti. Buonanotte, dopo che finisco qua, ho computer, oppure vedo che cosa sempre, anche su Rai Cinema, che sempre film mi sono. Sì, molte volte anche io me lo guardo, qualcuno se ne orgoglia, amici, non sono stanco, sennò gli amici di Roma. Buonanotte, vedo il film con Thomas Miriam. E chi sia, mi piace, mica. Quasi mi dice la risa. Ci sono i film che piacciono a me. Ma poi anche non ti ancora vedo che so con Pombolo. Ben dicendo. E chi do Pombolo? E chi si ti caricassi la domandina? Sì, quello è. Quattro. Ma quelli sono tutti film che piacciono a me, Natale. Mamma mia! Ah, ce l'ho anche in DVD, è una mia cassetta e papà l'ha passato in DVD. Ogni tanto ne prendo uno e me lo guardo, perché mi piacciono. Sono bellissimi quelli. Io non ce li ho, ma già quando capita già me li guardo in televisione. Bello averli in DVD come ce li è tu. Già ne ho visto parecchi di quei film, perché visto che ho visto in piazza, non vado in un bel rischio. Stavo pensando l'altro giorno, di vedere quanto ci vuole fare la tessera, ogni tanto qualcuno me lo prende, non sempre, ma ogni tanto qualcuno me lo piglio. Poi tutto quei film così a me piacciono un bel. E se noi risalti saremmo fatti stasera, cazzo. Adriano, cazzo, non riusciamo anche a capità. Era mezz'ora bisciato, cazzo. A chi era messo il 17 c'era Gian Maria e Graziano e io. Avremmo attaccato, cazzo. Tutta la sera ridendo se mi chiati. Successo. Sì, è entrato pure Adriano e non riusciva a parlare perché era mezz'ora fissato dalle risate. Me lo racconterai, dai. Grazie, mo fatti a beffa che... Meglio di perdersi. Scusa, è entrata Burrusi, la moglie di Graziano. Dice che si sta la moglie di Giovanni avvicinata della risa. A chi ne avevamo detto di tutti i rigurori. Sempre educatamente, giustamente, non senza... Ma ne abbiamo detto di tutti i colori, guarda. A casa sei, Natale. Figlia, perché non si vede? No, va. E mi sembrava apparito dalla macchina. Ed è quello, infatti. La Audi ne ha bucato. Sì, perché gli volevo mettere uno di quei nuclei di ferrite per vedere se fa qualcosa a quel rumore del motore. Penso che con quello non ci riesci, no. E vediamo un po' a vedere che effetto che fa. Io qua adesso non me ne accorgo, ma quando lo rimetto in macchina vedo un po' che effetto che fa. Aspetta un attimino, prego un attimo, che devo andare un secondo, che mi hanno chiamato. Ti faccia pure, faccia come se fosse a casa sua. Sono calma il cavolo di croce, vabbè, non entra nessuno stasera. Tutti morti, so, tutti morti. Ego. Avanti. No, siamo morti, siamo vivi. Taglia, ci sei. Abba. Mi ha attaccato la pompetta da Siracusa, chissù, il suo falchetto. Cava, cava. Stavo rigenerando il blobboli rossi e il blobboli neri. Cos'era? Fino rosso era quello. Il rosso di sera per tempo si spera. Allora, se poi bevi in vecchia Romagna, etichetta nera si crea anche un'atmosfera. Ma io, quando mi dici così, mi fa temere. Cava, cava, è così io. Oh, via, sai, qualunque gioco, oh, via, passa il dai. Perché? Adesso stanco. E c'è il travagliente, ma è tutto il tracco. Non lo sai che lavoro l'obbedita all'uomo lo rende simile alla bestia? È vero, la te lo conferma. Cicù. Voglia, andavo a vedere il dito, cazzo, però tu non è vero, non dispiace, tu non sei più stracco, cazzo. C'è stato un cicù, facciamolo entrare, avanti cicù. Grazie a tutti. Ciao Panchetto, ciao Talino, poi vabbè adesso non c'è Bombolo e poi c'è la Vera, avanti Vera con la buonasera. Buonasera Mario, ben ascoltato, 2 minuti di bianco che va a mangiare un arancio. Mario abbassa quella radio che mi stai facendo sotto. Vieni raro, Ma così vuole la radio, la famosa. No, che se non mi fai sordo, che è troppo potente in confronto alle altre, capi? Caramba, a me piace, l'adoro la radio così. Vabbè, se ti fa sordo, non lo so. Riprendi Mario, guarda anche qualche. Vediamo se ci va bene così, Natalia. Passa ancora un altro pochettino, almeno a livello di quella di Bombolo. Cazzo. Così? A passare un volume, fa uno e a farlo ballare. E così va bene. Adesso già sì, prima era troppo forte, ma... Ah, perché in cuffia stai ascoltando? No, ma mi ha dato un socio, ma ti sei entrato, cazzo. Sei stato in cuffia, ma mi ha ricordato fin dalla mazzingala del Berizoma. Ehi, tu, cazzo, ma se fosse forte, là, non vi credo, Bombo, forte era quando è entrato. Lei già era forte, già. A me, dico la verità, a me non dà fastidio. Già va bene lo stesso, solo che Natalino c'ha le orecchie delicate. ma se viene attivito la medicina... Già lo so che tu mi vuoi dare la medicina, ma io la supposta la do a te, la do... Vabbè, tu provaci che a me mi darà la supposta, ma tu lo sai che io a te ti offro sempre il camioncino, quello con la crema che ti piace tanto, perché tu sei un golosone. Cazzo, pure tu lo sai. Guarda lì, ci piscia tu, io lì. Ma oggi la giornata le risate, mi... Stasera Vera Mio Graziano, Gio Maria, Adriano manca a parlare, riusciva. Era un'ora pisciato alle risate. Parino, ma il professore attivo ce l'hai? Via, solo che c'è il microfono normale, già lo sai. Già è attivo già. La radio bassa è. Forse ce l'hai più lontano. Che microfono normale è giù, a me. Allora me lo pongo vicino, lo vedi? Così va meglio. Vabbè, mi l'avevi attaccata la gadriera il microfono. Appaga, figlia del cannoncino. Colosone. Il cannoncino con la crema. Ma questo amati chi si permette doverti risvegliare alla grande. Appa, te ne ho lasciato una posta. E allora passalo. Positivo. Ma la smetti so. Di chi si luci rosse. Chiama De Rocero, quelle che piacciono a Tullio sono, me. Con la mattina mondiale e cosa, me. Guarda che quella cosa, a vederle con gli occhi, c'è se lui ha gli occhi e poi non capisce più nulla, me. Chiama. Uno più uno meno, ce lo vediamo lo stesso. Cappa, ma c'è il pericolo che secondo quale mucchiaccia è, che se non gli legge le luce la prima occupione di nulla, non sai più ma con il diritto di casa tua. Parlavo di Woody. Una scena è bombolino. A tu? Dimmi. E metti in carro i sopri? Sì. Ma che? Veniamo. Giovincelle sono a livelli di primo e secondo buco. Ma si dice primo e secondo buco, si dice primo e secondo canale. Mannaggia chi l'avesse. Fate lì, so come mi sono. Cos'è perché? Mi sono cominciato la testa di Antonio. Natali, cosa ti ha giudito? Che hai qualcuno che si è appoggiato nei pannolini? Ah no. esibita stasera. Ora quello ci vuole, alla grande, su che si rulla, come dice qualcuno. Caspita, non lo sento Giuseppe, capo, quando non lo sento sto in pensiero. L'alimentazione ma penso che non le fai niente. e vediamo un po', va. Si gioca così. Ho pigliato i conti però, ho fatto dei bussi. Ma ci ho compreso una cosa. E qualche filtro ci vorrà per filtrare il rumore del motore. Cinati. Detto, ci vorrà qualche filtro per eliminare i rumori del motore. Tutti così sono. Tutti questi che ci stanno facendo adesso sono tutti così. Sto facendo le prove al mondo. Sì, ma già la trovo il sistema io, non ti preoccupare. Vabbè, là, io me la chiudo, già ci sentiamo domani al limite. Ciao, bomboli, salutami agli altri. E ci sentiamo, là, io sono un po' stanchetto. Sta lì, dai, ce la risentiamo, guarda. Ecco. Ciao Antonio, certi altri amici, dai. Ma sento questo rumore sempre, ma voi ce l'avete questo rumore in casa? Negativo. Che rumore è? Per quel rumore che avevo sentito per la televisione. Mi ha accompagnato, non riuscivo a sentire nemmeno più il Paolo stasera, perché mi ha accompagnato da Porto Torre, sino a Sassa, le mie grazie alle rei, da sempre questo rumore. Sei sicuro, ma io non li ho sentiti, io non mi sento qua. No, qua via Baldella non c'è, sino il via Giovanni Pascoli mi ha accompagnato, qui via Baldella non c'è. Buonasera, buonasera. Oh no, questo qua è solo una nota, fa solo un... ripetitore. No, non è questo il ripetitore, fa che mi ha accompagnato da Porto e si lasciasse, si trasmette un attimo. Già, aspettata. E poi è sparito. Sì, adesso qua vicino a casa non c'è. No, strano. E allora c'è qualche... qualche cavo alta tensione, capito? Potrebbe anche essere quello, eh? No, no, non è cavo alta tensione, no. Spiegamelo bene, bene com'è. Tirato i... così fa. E dove ti chiamo? Pronto? Dammi. Un attimo, che ho cancello. Adesso sono andato a casa, ho smontato e ho messo un po' di spettro al contatto e ho ripartito tranquillo. Capo, mi ti lascio in compagnia di Antonio per un paio di minuti, mi finisco queste due soldature e poi riprendo, dai. Intanto mi sto cambiando che sono risorto adesso, mi cambio 5 minuti. Capo, 2 minuti, finisco, sono 4 soldature. Le sto rifacendo a nuovo del tutto senza stare lì a cercare ieri, perché ho trovato il cielo giallo che non mandava, e allora lo rifaccio tutto, eh. 2 minuti e ci risentiamo. E io. Nulla da dire. Ah, già c'è più durato di Franco Murti, mi sono cambiato per il cancello, anche mi si è incampata la luce del telecomando, rimaneva sempre accesa e ne ho dovuto togliere la batteria fuori, perché ho detto che chiudevo perché devo togliere la batteria, se no me la succhiava tutta di colpo. Comunque quel rumore là, c'è da capire una cosa, c'è da capire. Se te lo fa, quando entra in funzione la pompa della benzina, o quando se lo fa, c'è da capire quello. spia? Io, ma come me lo spieghi? In certe zone non lo fa, in certe altre sì. Praticamente sino a Via Pascoli me l'ha fatta, in Via Barletta non me la faceva, poi ha ripreso vicino a proprio sotto casa. Ma pure sembrava tutto quel rumore lì. Ma quando è spento la macchina, quando si è di spegnere la macchina, si è basato, giusto? Ehi. Quando l'ha riaccesa è rimasto il rumore. Esatto. Però in certe zone lo fa. E te mi accompagna, se non riusciva a sentire manca per Paolo da Porto Torre. Un casino, non riuscivo a sentirlo proprio, no? L'ho sentito un pezzo e poi non lo sentivo più perché c'è questo ma una cosa allucinante, no? Non si capiva nulla. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. È una cosa un pochettino strana. Perché è quel rumoraccio che fa proprio la pompa della benzina. Ma no, bisogna vedere. Beh, ripeti con lui un attimo che mi cambio anche. Scappa. E me lo cazzo. Mi dà un controllino di radio, faccio una cosettina qua, com'è? Va bene. Ma va benissimo, forte e chiara. Andava là. Scusa, guarda, è così più bassa. No. Più bassa. Ma di molto? No, di poco. E così è più alta? Ma è così sicuramente. Non lo so, gli è cambiato l'impedenza o gli ha attaccato il processore. No, allora così è senza processore. O è macchina al massimo. Così con il processore inserito, con le macchine. Sotto la C, capito? Sotto la C e al massimo. Papà. Così va bene. Cappa, dipendenza quanto gli hai dato, 500 o quanto gli hai dato? Dipendenza il microfono è 50 kg, 50 K. Non 500, 500 non ci vanno, eh? Così è 500. Cappa, e 50 kg va meglio. Quanto ha poi il massimo? 1000 ce l'ha? No, 50. 50 è 500. E così è 50, capito? A 50 va meglio. Dice di più a 50. 500 diciamo che è così. Tipo un microfono dinamico, dai. Però potenziato. Non è KK. No, va bene, va bene. Allora, e domani la giornata da grande, mi passate domani, ma siete in zona, ancora si mi prendi, stavo gettando, ma rimango su Marzano, e poi io andrei via almeno verso l'una e 20 massimo, dai, sono andati via alle 2, sono arrivati a casa alle 1:20, tanto non mi rimane nessuno in più. Mezz'ora in più aiutato, capito? Per pazienza, da voi va. Pazienza, tanto. Cosa vuoi fare? Magari è finito tardi. Purtroppo, è il lavoro. Sì, tanti ore in più posso io un bel voce. È puro. Ma tu scusa. Cosa quante ore fa più io, qualche. Più di una volta. Sì, vabbè, assicurato, sì. Sì, morimo tra maga, capito? Ho tirato le mutate. Sì, vabbè. tutto nel nostro campo, bisogna andarci un pochettino con la testa alta, perché il lavoro sta un pochettino calando. Ragazzo, non lo so. Io faccio, ne ho ancora 12:30, ancora due. Esatto, troppo non è travaglio. Un po' per tutti. E così, ma là, io sto trovando la roba, farà cosa? Guarda, speriamo. Gappa, gappa. Purtroppo non ce n'è no lavoro. Ci sta penalizzando anche a noi questo cavolo di gas che stanno mettendo, su un bomboloni in meno, c'è lavoro di meno, trattati a pesci in faccia, perché se tu leggi, non so se tu leggi la Nuova Sardegna, ogni tanto mettono un articolo. È un lavoro che a me, perché lo devo fare perché non ce n'è altro, però a me no, non mi sta neanche dispiacendo, perché tutte le sputtanate che stanno dando nei giornali, tutte queste cose così, no, non vanno bene, dai. Lo so, tra l'anno che sono in guanto, sono che qua sono gli anni che stanno a fare male, sta prendendo un po' troppo, mi sa, perché non può troppo. Allora bisogna tirare fra mano. Arrivo subito, aspetta. Vedi la prima quattro. La gente si sarà cambiando. Tu fregatene, fai quello che devi fare, no? Non ti pensare che è meglio, perché bisogna andare a portarlo fino in fondo quello lì. Vabbè dai, poi fai. Andiamo subito là, però vediamo se si è dormito. Cazzo, già lo so che ti stai cambiando, fatto. No, mi sono già cambiato. Mi sono dormito già. No, mi stavo mettendo il pigiama perché sono rientrato adesso, va. Ed ero ancora in disabili. Adesso mi sto guardando qualche apposta su internet. A vedere se c'è qualche cosa per muovere. Vediamo un po'. Se faccio il dito, non ci credo. Come ce l'ha? Mi sono autocostruito una protezione per l'acqua, no? Fammi la doccia, sai, e poi cantiere l'acqua tu chi sempre. Praticamente c'ho bianco, un pezzettino dall'unghia in pura, un pezzettino di dopo l'unghia, no? Saranno 2 centimetri, circa 3, è bianco. Per forza, è impedito ai puri di traspirare. Tolto la traspirazione dei puri della pelle, è normale che si faccia così. Guarda, non sa. Purtroppo c'è una fontanita, guarda, fa anche male, no? L'ha preso proprio l'angolino dell'unghia, la pellicina, mamma mia, la fa troppo male. Un po' di mercurio cromo ci metti, vedi come ti passa, che non ti più. Già quante temperature mi ho fatto io, a migliaia, adesso mi sono anche imparato. Già, allora l'ha messo stesso, allora ammara, si poteva far sciaga come te, no? Praticamente sono andato a Bulling a scaricare, scusi. Cavolo, mi arriva questa follanta di vento, io non so come cavolo abbia fatto. E non mi si dronca lo sportello umano di un coso, di bongo di mongoli. Ma dopo prima non me ne varrà in alto. Ma che cosa nasconde? Sportello dove metto le bombole fuori. Ah, ma è deposito. Auguri. Cosa stanno di? Cosa mia è il vento che l'ha battuto. Ma si può dire tronca in mano a Eddie, no, in mano a me si è troncato. Che praticamente era aperto, era dato un colpo di vento col ventaccio che stava facendo il... Che se ne è parato. E vabbè, cose che succedono. cielo. Forse come l'aperto lo spazio è tutto così. Ma quello che ci sono troncati i cosi, si sono troncati le cerniere. Stare qui. Ma te lo fa tutto là, è come il fratello ha troncato le cerniere. Ma ci rimane, ci prende un colpo di ferro a capo. Se me l'ha detto. E pensavo di non avvenire, ma ci faccio un po' male. Qua ha deciso. E allora? Quando lo tocco mi fa male, deve essere qualche taglietto che c'è, ma non è stato molto grosso. Perché mi ha fregato che io stavo scendendo dal canale della gabbia, stavo scendendo e si è staccato mentre stavo scendendo, come mi sono aggrappato all'altro, come deve essere ho stretto, ho riuscito e fui uscito quello e mi terminerà di capo. E oggi ho rischiato di smattare, sono un coperchio grande. Se deve entrare la bomba a 20 zincole, ho rischiato che me ne cadessi addosso, a matta che viene a fare, e c'è che era a qui già. Via! Dove lo vuoi fare? Oh no, scherzi del mestiere. Ti ho detto, chi non lavora non succedono queste cose. Quello è poco ma sicuro. Ma, vabbè. Cosa vuoi fare? Solo che mi gira le pallone. Come la mamma possiamo già portare un mobile in questa casa? E a sosso. E questo ti mi ha detto, lo alzi? No, no, non lo alzi il mobile, lo faccia scivolare. Gli metto il tappeto sotto, lo faccia scivolare. E ma cosa? E lo alziamo che si prende i video. Gli ho detto, no, guardi che può rompere qualche cosa. No, no, non è problema. Ha pigliato, l'ha abbassato su, gli ha brutto, si è cuccato. Tu ha toccato un quadro con una lampada intera e facendo il vento. No, gli prende i video. E glielo ho detto, scusi, non è che non so per esperienza, già è successo altre volte ai miei colleghi, quindi io non lo alzo mai, gli metto un cappetto sotto, lo faccio scivolare. Già, ma dopo c'è una attenzione, parla tutto. Ah, nelle case, qua, io preferisco non entrarci a volte, perché ci sono vasi, chi su, chi sa, ti faccio cacciare e tocca pagare. Che grappa. Ma poi secondo me è anche una cosa sbagliata, perché deve esserci una persona attenta che faccia quel tipo di lavoro, non uno che si fa con altri consegni, si deve anche farti quelle consegne là. Antonio, dillo a lui che ti dice che devi pagare un accidente. Sai com'è, no, loro vogliono guadagnare molto e pagare poco. E già lo so, Giacomo. Anche perché con la crisi che c'è adesso, un casino, a volte si vede concorrenza, cose varie. Ma così no, non è lavorare neanche, dai. Quelle cose bisogna farle, chi le deve fare, chi deve essere l'addetto. Un professionista, cioè una persona che fa solo quello, uno non può più farsi di fare delle cose e fare altre cose, assolutamente. Lì è Santa Rosa. Non è così, no. Se non sembra un divulgante, non ti vuoi, chi? Da lo so, ma è sbagliato. Per la professionalità, eh. E intanto noi pubblici mica li rimontiamo, li portiamo e li lasciamo lì, dopo si arrancia. Quelli smontati io li lascio lì, poi ci sono quelli montati, allora va anche bene. E cappa, non so come la ragionano. E sto guardando un film che ha messo Massimiliano su internet. Massimiliano? Un conto. No, verità, sono da un po' di tempo senza andarci lì, eh. No, io non sono su quel sito nostro, eh. Sì, lo stai andando a guardare lì? No, sono su Facebook. Andando a guardare da lui? No, io ho contatto con lui, quindi lo vedo quello che me. Cappa, lo stai andando a guardare da lui? Non sul sito cbkpk.sasa. Oh, già lo so quello. Aspetta, mi piglio una ciccata. Vai. Sei di Riccardo, ya. E sta come sta già appoggiando il microfono, si è andato a sganare. Però l'ho toccato io, perché io blocco, non ne metto mai. Un attimo. Via. E là, sono finalmente corcato. E gappa gappa. Speriamo che questa stanchezza non mi vada addosso, adesso mi trovo subito. E gappa. Posso ancora pensare chissà cosa. Ma c'è rumore? Via. È strano perché te l'ho detto, a pezzi me lo fa, allora oggi mi ha accompagnato da Porto Torres a Sassari, però quando sono andato non lo faceva. È strano è quello, capito? Che scappa, non cosa strano, sì. Speriamo che scompaia, perché non è sempre che lo fa. Ma adesso domani mattina, prova primo mattino a se lo fa. Perché è un po' strano. Come il coso del gas. Forse. Che la pompa non c'entra nulla perché benzina non le stavo usando, scusa. Era gas. Strano, molto strano. Non lo so. Perché la benzina non la stavo usando, adesso che ci pensa era gas la macchina. Vabbè. È un rumore del genere. Non ne ha mai fatto, capito? Cosa sta facendo? Ha fatto l'altro giorno e oggi. Però sempre a tratti. Addirittura l'altro giorno finito sorso di bidriati e lì non me l'ha più fatto. Dalla Budibudi in poi non me l'ha più fatto. E poi oggi proprio è arrivato sino a Via Pascoli perché mi sono fermato lì al Ciso. E poi quando Via Baldetta ha fatto, mi dice Via Baldetta, poi si è furata, non c'era più. Sono bravo, io ne vedo occhio a vedere che cosa cavolo può essere. Adesso vedo, se domani lo fa di nuovo. Ma quando lo fa, magari ti fermi da una parte e provi a spegnere la macchina, a vedere cosa succede. Se sparisce vuol dire che c'è qualcosa. No, quello l'ho già fatto e sparisce. Come lo spengo sparisce. Chiaro, è qualcosa del genere, qualche motorino. Come me lo spieghi anche tu, cazzo, che lo fa a tratti no. Avanti, Pierpaolo. Pierpaolo? Provando un altro canale. Si dice un pipì. Ecco, prende un gol. Stanno al microfono. E già l'ho sentito provando poco fa. No, ma non c'è problema, io la gente sento lo stesso. Antonino, se non sento, passo basso stasera, quando stavo parlando con te, che l'acceso lo sentivo basso. Stava fermentando con l'apparecchio della macchina. E cosa stava facendo? Stava provando a mettere la ferrita. Ah, e gliel'ho messa, non l'ho rivaltenuta, va. Ne ho messo due addirittura io. Non rivaltenuta, no. Sono così chicche. Sono tutti così questi che stanno sfruttando. Però non pigliano in queste. Perché che problema li dava? Sento un pochettino il rumore del motore. Quarebbe. Ah, va. Ma sono tutti così, me. Io mi ricordo tipo quello che è il 550 per un modello vecchio che se lo si poteva lasciare in macchina. Come il terremoto, brrrr, in magazzino. Poteva fare anche questo già. Ma si poteva... L'ho venduto per quello, perché non si poteva tenere in macchina. Ma quello, fa quello di Natalino. Ma un pochettino il tuo lo fa, vero? Appena per rubarli, si sente. Adesso lo fa forte, cazzo. Non so cosa sia. Speriamo che sia roba che c'era nell'aria, magari oggi, perché con umidità, non lo so. Tante volte anche quello. No, ma a parte tutto quello, però lo fa appena, vero? E appena sì. Ma non è forte. Quando è normale non è forte. Tu mi sei trovato l'apparecchio, lui no, con l'apparecchio che c'era prima, quello non lo faceva. Sono tutti gucci soffo, carico. Sta passare appena lo squeccio, non lo senti più, ma poco a poco, eh. Va, è tutti gucci soffo, qua. No, ma non è a livello forte come quello del 550 che c'avevo io, quello lì faceva proprio casino. Te cos'è questa cosa? Subito. E me l'avevo anche modificato, me l'ho fatto con la camera eco, come il mio, non è? Questo collo. Non mi aveva fatto una cagata quello che me l'ha fatto. Non mi piaceva. Era brutto letto. Ha fatto Giancarlo quello che si serviva prima di Gino, ma non mi piace. Ne scava, aveva messo parla scusa troppo alti, ne scava. Brutto, proprio non mi piaceva all'inizio, poi gli ho tolto di nuovo la camera, ecco. E l'ho dato a un camionista che viene da lui, da Voluto. E la camera, ecco, pure lo so dove ce l'ho messa, lo sa. Non sarà più messa poi. No, gliel'ho venuto senza. Aspetta un attimo che c'è Nerone qua che. Aspetta un attimo. Lo faccio uscire, se no. Al monellino. Mannaggia che c'è Nerone. Puffa, puoi parlare? No, ma lui non parla, non mi augura. No. No, te l'ho detto che non mi augura. Ma è strano, Si intende un mente da appena, ma leggero, ma non lo senti mai. Come lì, di là? Aspetta, ti faccio uscire, aspetta, amore. Ciao, saggia. Che bello. Aspetta un attimo. Ricoccolate più a quello a Ceres. Dove vuoi? C'era, se te lo prendi. Guarda. Se mi vuoi sempre graffiare. Vedi? A me mi ha musicato. Così fate. Stavo accarezzando dove ti diventa scemo, no? Quando tu, anzi, ti lo tocchi sopra la coda, dove c'è tra la coda e la schiena, lì, lo gratti lì, diventa scemo, fa la coda dritta e gonfia, e fa... diventa scemo quando lo accarezzi. E invece c'è come sono andato a toccarlo, ma ci ha fatto un po' la fida, non è che ha stretto. No, non ti graffia, no. Ti dai colpi col cuscinetto, bala. Ma non mi ha graffiato, mi ha musicato, è diverso. Mi ha musicato, però non ha stretto. Non stringerlo. Dopo con questi denti aguzzi me l'aveva fatto un genio. Non stringe a nessuno, no. Fatti così, ma l'avevo fatto tutta. Se lo fa per farti paura e per minacciare. Allora, vabbè, se la pigli come stai già. CTT. Tu le unghie a un gatto non le hai mai tagliate, vero? Mai. Le taglio sempre a titi. La punta è, ci vuole a fare proprio per tagliare le unghie ai gatti. Scappa. Non ho mai fatto io quella cosa. Titi, ma io lo devo fare, perché sennò i gatti sai cosa fanno? Per consumarsi delle unghie ti graffiano i mobili, invece facendo così io l'ho abituato da piccolo, lui i mobili non li tocca. Scappa. No, ma loro non lo fanno loro, quello lì. Graffiare i mobili? Tu magari non ti inabiti, ma già lo fanno, perché quando se le devono consumare quindi in qualche modo, loro di solito se le graffiano negli alberi. Quando sono in cattività le graffiano negli alberi. Io non l'ho mai visto facendo una cosa del genere, sia uno che all'altro. Poi gli ho portato il graffiatoio anche, fanno lì. Lo usano? Va. Vabbè, si usava quello, tutti non ne usano di quello. No, io lì, la mica li fai male, se sono cose che si fanno. Solo la punta li devi tagliare, no? Tac, di modo che non un graffio. Ecco che lo so, ma se ti toglie le unghie, ti graffia se vai a toccarla e non vuole. E ti sa se gli dà un becco non gliela in taglio. Allora, siccome il sistema per tagliare le devi praticamente con il pollice e l'indice devi premere la zampa, tu premendo la zampa butti fuori le unghie dal gatto, una volta che sono fuori tagli. No, non l'ho mai fatto una cosa del genere. Vabbè, perché tu non lo sai, ma io glielo so come ti si va. Se lo vedi qualche volta lo impari e lo fai. Io lo facevo anche agli uccelli. Sì, a catturare di zone. Perché poi li si girano le uniche, gli uccelli quando diventano lunghi li si girano, li si incarnano, capito? E diventano. Bisogna, però l'uccello c'è un altro modo per tagliarli, lo devi mettere contro luce. Perché li passa una vena nell'unghia, li passa una vena, se tu becchi la vena esce un po' di sangue, invece lo metti in controluce e guardi dove finisce la vena, una punta le rimane senza la vena, e te devi tagliare quelle buco. Secca, pagata. No, non lo so come si fa. Ma io credo che vanno là e non... penso di non farglielo, dai. Se se ne grattano lì nel graffetto io non c'è bisogno, tanto perché ne consumano così, ma che sia, anche se non va delle chimie, la cacchia a trabatti si deve riconsumare. Pure il nebone, la trota c'è un quelle, abbiamo lasciato per la scatola che lui piaceva, se ne stava facendo lì. Ti piace cosa fa quando svuotiamo il latte? Come svuotiamo il latte? Prende e si senta dentro, e sicura, si va di minore in minore. Dopo quando passo io, che lo faccio apposta, ora me lo so che fa così. Come passo io, boom, brinchennato. E ci dico, e poi ti vado a sussare, ma come stiamo a fatto qui a urlare? E poi vado a uccidere, dice di la ricarica. Cioè, intanto qua fanno, come si chiama quello sport, racing, di brincainato, visto, la ragazza. Piccolino. Yeah. Gioca lì. Non ti ha sentato ora. Però non è che si fa inseguire, invece. La grande. Yeah. Se prima lo provoca, hai chi domanda la bicicletta di brincainato, Gioca. Fanno un bel ridere, fanno. Cappa, meno male che hanno fatto amicizia. I primi giorni sono un po' così, ma poi già fanno amicizia. Cappa. Lì ti sarebbe stata difficile. Ma è quella gelosa. Non me l'avevo portato quel persiano bianco, tanto ho battuto fuori il cottone. Persiano puro, con gli occhi azzurri, cazzo, era bello. Oh, buffava pure a noi. No, se ne andava sotto al letto, come andavi a prenderla si faceva gonfio gonfio. E allora, Adriana mi ha detto già, qua c'è pericolo per i bambini, cavolo, non è possibile, vanno a toccare le graffe e cose, va bene, dai. O dai uno o dai l'altro. E ho dovuto regalare quello persiano, non mi ha importato se c'è il cortile. L'ho regalata lì, ma se vedi come è diventato adesso, cazzo, qua, quando lo vedo sul muretto del cortile mi rimango io un capo, è bello. Tutto tanto peloso, bello, una coda grossa, le stampe grosse, corte, bello, ben fatto proprio. Ma secondo me col tempo non è che fa niente, se ne va lì, ma non c'è, cioè, grazia perché è arrabbiata, ma poi secondo me alla puntina gli era passata. Titi, lo sai cosa fa quando la scrivi? Cosa fa? Se ne va in bagno, si mette tra il muro e il water, si accuccia. Esame. Ciao. Allora, secondo me poi avrebbe miagolato lo sue scatole, ma secondo me gli era passato. Dopo un po' di tempo gli passava. Ma c'era anche un altro problema, Anto, che quel gatto lì me l'avevano regalato, però non mi avevano detto che c'era una specie di scabbia, eravamo conteggiati a me, a Titi, a Manuela, a Liliana, tutti quanti, stavamo impestando la casa e siamo dovuti curare tutti. E quindi l'altra questa amica gliel'ho detto, quello che aveva, detto vabbè lo lascio in cortile, gliela curo così, faccio finta che non ci sia, poi quando li guarisce lo faccio entrare in casa. Ora proprio la capienza, vero? No, no, libero. Io ci ho dovuto buttare il dito, io non so, i tappeti, un po' di roba. Succede? Bollire tutta la roba, ce l'ha detto il dottore, bollisca tutto, perché è una cosa che infetta, si contagia uno con l'altro, pulisca bene con il vapore, eccetera, eccetera. È una malattia praticamente della pelle, no? Che però ti irrita, il pelo su ti irrita e ti fa formare delle macchie sul corpo. Cioè, abbiamo portato da poco a coso a Nerone, che tra l'altro qua l'ho portato al veterinario, sano come un pesce, non c'era manco con nulla. Ma Nerone cos'era, in casa o in cortile? Diciamo che stava come che era in casa, dai. Stava tra fuori e dentro, così. Che ha preso per poco, ma proprio era sano, se non c'era manco nulla, ha messo sotto la lampada, nulla, cioè non vuol dire nulla. Ma quando li mettono sotto la lampada, se riescono quei puntini viola, quella luce viola, stai dicendo, quei puntini bianchi, vuol dire che c'è la scarpa. No, no, no, lui non c'era niente, nulla, nulla, nulla, nulla. Pidocchi della formula. Cavola. No, no, no, no, lo guarda. Lui era sano. Sano, sano, sano, proprio niente. Quindi ha proceduto e ha fatto il vaccino. No, l'ha tutto controllato prima di fare il vaccino. Poi gli ha fatto il vaccino. Cavola, non è meglio così, vuol dire che non era né malata la madre, né malata il padre, perché a volte quando stanno fuori si pigliano i pidocchi, roba così, no? Cose che si trovano alla pelle da altri animali, poi quando fanno i figli loro come li allattano, è cosa di contagiare i pidocchi, capito? Ma se ce l'ha messa la cura per... è una che ne capisce, c'è anche il negozio animale. Stiamo cercando, non sei uscito per un attimo. No, sicuramente non ho premuto bene. Vagabondo. Ma questi animali, ce l'ho, lo conosco. E nella via dove siamo noi, no, no, allora non so chi sia. Non so chi sia qui, ma animali non ne vende. A Porto Torres vendono. Porto Torres? Quel negozio di animali c'è a Porto Torres? No, lì stava la vendita degli animali a quanto ho capito. Ma nel negozio cosa vende? Ma se si rivenderà la roba per gli animali. Solo la roba, animali non è? Non lo so, non so se... Comunque ce l'aveva in campagna di una signora, cioè di una sua parente. Non è vende però. Due donne sono. Una mi sa che la conosci pure, adesso non mi ricordo come cavolo si chiama. Il Polottore? No, è di Sassaria. Allora, Polottore di negozi ce ne sono due, uno in via delle Vigne e uno che si chiama Piccolo Totturitano. Non vi ne affido. Guarda, una conosci di sicuro, quella che diciamo che è la padrona, stava al Ciso. Il padre di cognome si chiama Pirella, se non mi ricordo male. Pirella. E il nome non lo ricordo. Non lo ricordo, no. Ma può darsi. Mi fai si chiama Alessandra, una cosa del genere. Alessandra, non ce l'ho presente. scappa. E vabbè, ci sono passati le ragazze, quindi non mi ricordo tutta. Magari se la vedo già me la ricordo. Pirino, sì, sì. Lucia Pirino, sì, già me la ricordo. Oh no. E vabbè, perché quelle degli animali, cioè, le conosco tutte. Via Cesare Battisti, via Pascoli, tutti quelli che hanno questi animali, Ripunti, dietro San Giuseppe, tutti quanti li conosco. Sono e lì l'hanno preso qua poco il negozio. E vicino rimane, dove rimane? Vicino alla Sisa lì, no? Ma c'è una fonte verdura attaccata lì. Ma è strano che venda mangi meno a venda animali, boh? Mi vendono i pappagallini, se vuole così lì. E animali pesci, cose lui non ne ha. Non so, non ne ho mai visto. Io me lo sto per piazzare in casa un negozio di animali. Adesso c'è pure la buccia, te l'ho detto che Marco ha vinto un pesce alla giostra, me l'hanno regalato e non c'avevo un contenitore per mettere, mi ha detto mettere se mi ha detto no che ti muore, che questo qui non è tropicale, deve avere l'acqua fredda, non è l'acqua calda. E papà cerca qualcosa, l'ha trovato uno di quei barattoli dove andiamo a fare le olive confettate, quelli grandi. L'ho messo lì all'inizio. Poi mi ha pregato di comprargli una buccia di quella per mettere i pesci rossi. E io, vabbè, tanto per accontentarlo, sono andato a quelle ricche che c'ho lì, a Cesare Battisti, e ho visto le bucce, c'erano piccole, medie e grandi, ora ci ho pigliato lì da mano. E però ho detto, per un pesce solo questa cosa non va bene, allora giubilato altri tre pesci. Hai fatto bene. A me l'ha reso contento. Ma non ho reso contento a mia moglie, mi ha detto, cosa ci facciamo oltre qua? Adesso ci vuole anche la buccia. Già ci aveva l'acquario da 100 litri. Poi ci ripiace. Ma i pesci gli piacciono. A chi? Dico, manco l'acquario gli piace. No, per me meno ce ne sono gli animali meglio. Perché lì a questo acquario vorrebbe mettere un bel mobile. Ah, baciate di volta. Ciao Farkin. Ciao Gianni, vabbè. Stavo dicendo, ti vuole la notizia bella, poi si è sparito di colpo, sta per il cancello, boh! E che notizia le dovrei dare? Ti hanno sentito a Urbia, ma ti rendi conto che ti hanno sentito a Urbia? A me a Urbia? A Padeloccio. Ma con macchina? Dove? Quando lì macchina? No, sta per pissa. E chi mi ha sentito? Domenico. Trovate un gomito. Andaggia, hai visto? hai visto. Tante volte non vuol dire accompagnare, hai visto? E sembra che è difficile arrivare. È difficilissimo, infatti sentiva proprio te parlare, però non decifrava con chi stavi parlando. Però a te ti sentiva benissimo. E allora sono il primo adesso. Parogero. Qualche visto me stamattina come rocuccio. Messo Maria, andate. Ma acqua però dai, tutto il giorno piovendo. Ma dove si va, dai? Tutto il giorno lavorando sotto l'acqua, eroe. Sì, mi fa che tu mi hai visto com'ero, tutto strisciato. Gesù Maria, ma come si fa a lavorare in quelle condizioni, però c'è, qui che è proprio... Aspetta un attimo già che vado in bagno, bianco un attimo. A volte mi sento uno straccio, Ci credo, cavolo, lavorare in quelle condizioni è critica veramente. Tu dove sei? Lì che stai lavorando, Falchi. Questo palazzo lì sto lavorando, è al primo piano. No, io pensavo proprio attaccato alla Sisa dove c'è quel cancello. No, allora non ho capito male io. Ma intanto se non sei venuto tu, sono venuto io, te l'ho detto che a me mi becchi. Comunque il tuo negozietto è lì vicino dove lavorerai. Negozietto? Noi abbiamo 16 negozi la mia ditta, c'è. Anche Granai, quello che tu hai già portato, se che vedi Granai, c'è scritto Granai, quello lì è nostro. Kappa, però ti si fa il QSO, sei tu. lo so, so. Purtroppo sono tornato un po', va. Lei è la Maria. Niente, io lì stavo facendo, stavo ristrutturando lì un appartamento, cambiando dei tramezzi e compagnia bella, ma mi sono fatto un mazzo anche io, gioia, per carità di Dio. E ma almeno lì al chiuso fa il che. Brutto è quando va via e ti lavora un mazzo, perché la gente quando ci sta piovendo lo fa apposta, va, si fa la spesa e si torna a casa a mani libere, capito? Quindi la macchina si innalza, la poi si finisce di fare romano. Kappa, io sono proprio il palazzo che dà faccia a Lido. Ho capito. Faccio capire. Dove ce n'è fal che? Io sono una vita che travaglio in Chibili, sono 30 anni. Kappa, ma tu stavi consegnando quel palazzo lì? Eia. Io ero sempre in quel palazzo, però la, come si dice, più avanti, nell'altro ingresso, diciamo, sempre in quel palazzo lì. E il portone successivo? Positivo, dalla signora siciliana. Lì ci abita anche una signora tedesca, che è alquanto buonata. La biondina, già l'ho vista. Canta mia sallone. Anche la lì, una volta gli ho portato un regalo a Natale, che non ce la facevo manco a prenderla, quanto era grande. Lì? No, al bambino gliel'hanno regalato, era un orso enorme, ma enorme, era più umano dell'obiettivo. Stai dicendo non ci stava un ascensore, la cantera mano. Ma gliel'hai portato tu? Sì, a Colombo di Pasqua. Kappa. Perché non hai mai portato niente? Lì ci abita l'architetto qui. So. Comunque se tu guardi c'è un cognome tipo tedesco, non va così. Sì. E lì si guarda, capo, c'è scritto siciliano. E lì proprio di Trapani, addirittura. Kappa. Si chiama siciliano di cognome. Positivo. E lì è avvocatessa comunque, capito? Lì abiti, cioè stai lavorando tu, da quello lì? Sì, proprio da quello, al primo piano. Capra, già va bene. Lavoro per dei 3-4 giorni di lavoro, di più. È così. Cattami che la luce Maria, che mi guarda. Come mi sta bene. Mi sono comparso come un fantasma. Grazie a tutte le pecorelle. C'è la Capri 2, vedi? E dove? Ah, sono 5. Poi è entrato questo tipo, a mettere musica. E Capri 2 ha registrato tutto. Poi allora, perché a me l'ho detto, mi fa, dice, vai su quel canale, vado su quel canale, su 46, ma sembrava fuori frequenza lui. Allora gli ho detto, guarda, mi ha fatto lui, vai sul 10 che c'è altra gente che sta parlando. Oh, sono passato sul 10, aspettando che entrasse, boom, e già nel Capri 2 è un lunga. Spero che lo chiamiamo, attenzione, già nel Capri 2, caro. Non ti fare salve a Mario già. Basta girare dove lui non arriva. A serio? Ma dov'è lì il paese? Kappa. Basta andare a spacciare la cama direttamente. Pagato. Mi fatto questo. Sta continuando a pischiare sopra, io lo sento, come parla Capridue, lui pischia, pischia, oh. Capito? Già? Sì, ma io a Capridue lo sento perfettamente. Sì, quando stacca il mic, se tu muti, se tu si senti, c'è un tipo qua. Vai, gara. Sta uscendo tutta a fischi, chi è il greco? Vela, tu sì. Io sogno. A fischi sto uscendo. Oh, adesso sta uscendo bene. Esco, Gianni, dimmi come è questa radio, bulla. Già, va bene. L'ho sentita anche da poco fa, sei tre ore che mi sta splatterando e non mi sta facendo sentire a nessuno. Ma scalcò. Che cazzo, direttore, splatterando io. Va, ha capito lo colpivi di brutto. Allora che lontano, va, che lontano. Ah, fottiti, sono scherzato, me ne ha fatto assassare. No, va bene, per pacco. È colposo, vero? Eia, ma che cosa ne fa? No, si era staccato un filo e ho riparato le connessioni. Però c'è, ho notato che c'è un particolare, allora sono più corposo, però mi... cos'è? La trombetta del bus. Oh già, quando tocchi il filo fa così. Oh, sembra che poi rimane sia la trombetta che si sbuglia la bicicletta, bobo. A me io faccio anche le trombette io. Non le sei il cavolo, non mi serve più allora, boh. Vabbè. Cavolo. Che strana, vero? Come lo schiacci. No, lo tocco con le mani con le dita, no, guarda. La trombetta, va. Ma hai avuto retto, capito, una trombetta? E chi è quello? Capridue. Cazzo, mi sei sempre migliorando. Certo, ma aspetta un po' questo per passare in altri canali, se no me ne devo andare in frequenze, in altre frequenze. Ormai è accessibile anche all'impronti la apparecchiatura, io però quelle che so io non se ne sogna, hai capito? Lì pronti non le voglio, ma se non le manco troppo carico, è troppo carico, vai Capri, se non riesci una parola sei molto saturo e sta troppando un tempo questa roba. Cosa ti stavo dicendo? Avete sentito il mio nuovo record? Lì, ve lo dice Falchetti. Che a te la parola. Il tuo nuovo record. Sarebbe? Cazzo, quello che metto poco fa. Ah, sì. L'avevo sentito a Urbia. Oh, Gianni. Eia. Mi sposo un attimo che devo risolvere questa cosa, no, se lo tocco fa così, dai. Vabbè. C'è un altro bip, a futti bip. Lascialo stare per pagare bello. Vito Capridue, a Olbia sono arrivato. Ok, buona partenza, no io. Devo piantarti in alta la roba. Aspettando già più niente, non ne ho problemi. Io mi hanno già che vado anche in altre cose che gli altri non si possono permettere, quindi mi diverto un pezzo. Qualcosa stai pompando, capito? Mento. È anche molto chiaro. Sì, Santiago 3. un'altra maniera quasi sente, però la modulazione è brutta, sta saturando, probabilmente c'è stazionari. Ah, infatti sono uscito dopo con l'antenna. Quelle della CT sono sempre Midran, non sono antenne buone, non mi sono mai piaciute, tranne quella che ha preso Massimiliano che rende, ma poi tutte le altre no. Ne ho provato due o tre e non mi sono piaciute. No, le Sigma andavano bene da me, mi piacevano molto le Sigma come antenne. A me piace molto anche del Sirio, questa che ce l'ho adesso è Sirio e va bene. È Sirio? Ho usato anche tu la Sirio. Tu, magari adesso le fanno, si sono modernizzati, si sono all'avanguardia, ma prima quelle che andavano erano quelle. E pompavano le Sigma, erano nominate a chi pompava di un bel. Oppure la Lemme non ha mai fallito. No, anche la Lemme, no, infatti non ti sto dicendo il contrario, la Lemme lo stesso l'ha usato io. Aveva addirittura la Grand Prix che era della Lemme. Capri 2. Cosa Capri 2? Il radiale 275 in 1 ci aveva, un bel grande, era la grande, ma pompava quell'antenna, sembrava una 5 ottavi, arrivavano vicino al Alghero. Io quell'antenna lì l'ho vista messa male, con un radiale rotto e così, ci va sempre bene. Un'antenna, una Grand Prix proprio ben riuscita, anche perché era tra le più forti come Grand Prix. Dopo che l'ho smontata, anzi, era voluto venire lui a smontare, è salito sul tetto Angelo Asso, l'ha smontata e se l'ha portata via, l'ha venuta 40.000 lire. E quanti ce n'erano baracchini bene allora? Via. A tu che gli si dava Asso? Vabbè, anche adesso ci sono mesi, ma allora c'erano dei baracchini che ti davano delle vere soddisfazioni. Il Covosant, questi baracchini bellissimi. Avanti Antoine. Dai, però, quello che stiamo facendo adesso sono buoni lo stesso, minchia, Cristina. Non stiamo sempre con le cose vecchie. Le cose vecchie avevano una tecnologia, le cose nuove hanno un'altra tecnologia, tutto qua il discorso. Però sono valide al 100%, anche quello che hai preso tu da poco è una grandissima radio, non c'è da dirgli proprio nulla. Sì, vabbè, ma io sto parlando a livello per dire di QRN, quelle radio che facevamo prima non ne sentivi nulla, quelle erano sorde proprio, sentivi solo la voce anche. Vabbè, prima usavano una cosa e usavano un'altra cosa, tutto qua il discorso. Diciamo che la nuova tecnologia ha scoperto nuove cose, però in alcune cose ha peggiorato invece che migliorare, tipo il QRN che si sente tantissimo negli apparati nuovi. Se prendevi un Tokai 5024 ti facevo vedere che cosa era. Solo una voce perfetta, una telefonata, vero Capri? Parlava. E quell'amico tuo era? Ah, l'avevamo beccato quello lì, sì. E praticamente è una persona che ha avuto un brutto passato, eccetera, eccetera, e si imbriagheggia e fa. Stasera li vedi le macchine, problemi ci sono, ma già girano anche in città, non è che quello è il problema. Naturalmente chi si comporta bene non viene puntato, la gente che invece si comporta male, che usa gli apparecchi non per scopi radiantistici ma solo per scopi di rotture di scatole, allora è giusto che venga punito, è giusto, io sono il primo che dico questo. Io non mi sono mai permesso di rompere le scatole a nessuno, a Parigi. Avanti, Falcone. Per farti tanto se ne faccio sì che è pena. Io posso sicuramente, ma certo, uno deve stare calmo per i fatti suoi e non rompere le palline. Tutto qua. Ma non è così, già non è così. Capri tu, cosa vuoi fare? Ma io da lì mi posso immaginare che possa essere. Accetta. Ci vuole poco a sopperire. parrucchiere. Va. chiara. Però ti stavo dicendo, quel difetto forse è là. Sì, la tromba è più. È in testa, è intera. Era un filo che toccava, purtroppo i miei occhi, il mio sinistro non funzionano molto bene. Ma che cosa stai dicendo? Io invece il destro. Non lo sai cos'era, un filo della casa, un filato della casa che andavo a toccare nel nero. Un filo di quelli vaganti, diciamo. Avanti, Capri 2. Se qualcuno non capisce mi ripete cosa ha detto. Che li sta arrivando a fondo scala, non è che tu gli stavi mettendo la porta a te poco fa. Come fondo scala? Ora gli abbassiamo la potenza, a me che va così, caro mio. Così no, se lui parla quando è così, io lo sento benissimo. Sento la differenza qua già. No, vabbè, no. Io qui non la sento. Avanti, avanti, avanti, Falchetto, se ci si. E lo riprende i capri. Beh, adesso, e quanto c'ha? Con lui c'ha, mi pare, 5-10, qual è l'ideale? Il B... il B300, ma... Devi dare male ingresso, chissà, ma magari può dipendere anche dall'antenna, con l'antenna così non... Te l'ho detto, non ha... non risuona bene. Tempo buono, io l'ho piantata col vento a 120 km orari. E lì rimane. Cazzo, canto si ritrango su. Io sto pensando domenica. Domenica vediamo tutti in grefa a prepararci due o tre porcici. Quindi sei allegro. Regala il disco, come lo è via, mia socia le regalo un bel disco. E che disco mi stai regalando? Sta sciolta, io sono Zaramara. Sarebbe presto oggi. Thank you. Carica, apri due. Infatti, ti ho detto anche oggi, del passante di vulcanizzante ci vuole. Per quanto riguarda la parabolica che sta vincendo poco fa vicino all'antenna, so che la, così la parabola è vicino all'antenna del genere, per i fulmini attira di più i fulmini. E infatti qua l'altra dolce, qua vicino dove abito io, cioè un po' lontano da dove abito io, comunque all'altra dolce, una antenna con sotto la parabolica il fulmine la sradicata con le scoppiate in pratica. Thank you. che costava molto meno di quella che hai preso tu, quella Grand Prix. Quella lì addirittura l'ho vista anche su internet, anche qualche cosa di meglio, poi dipende anche da chi la compri, ma in un sito l'ho vista anche di meglio. Perché tu immaginati che io ho pagato la Ringo che è superiore a quella lì, io l'ho pagata 34 euro, come Tremonti, come in Ciao. Ciao, ti ha parlato e buona parola mai. Speriamo che non ti abbia così come un tipo di sudato, da nel vetro. Campa, speriamo che non piova, no, con il nome bagno. Ok, dai, ciao, ciao. Ciao, buona notte anche da parte mia. Capa, quando mi porti un baracchino ti do la macchina da cucire, che baracchino mi puoi dare? Oh, non lo so, lascia vedere. Un tempo non mi va bene, là. Sono più o meno stessa cosa, costa 300 euro, la macchina da cucire valutata su internet. Già andrà bene, già andrà bene. Se no la metto qua da fuori della porta, domani sera mi sono giù a 100 storie, questo ce la metto fuori dalla porta. Quando vengo dei domini dico, mi dammi 300 euro, siamo a posto. Se passa quello domani mattina la metto fuori, devo andare a fare pulizia, devo togliere tutto domani, non andrò a casa entro giugno, capito? Quindi sabato faccio il trasloco. Stai dicendo Alessio? Ci stiamo le prossime, ciao, buonanotte.